Merhaba, Açık Radyo'dasınız, 95.0'dasınız ve Itabella'dasınız. Itabella, İtalya'dan yani çizmeden pek çok tınıyı sizlerle paylaşmak için var. Eminim herkesin bambaşka tecrübeleri vardır ama benim İtalya'daki tecrübem ve İtalyanlarla olan tecrübem pek hareketli, pek hararetli ve müziksiz yapamayan bir yaşantıydı. Pandeminin başındaki hastane görüntüleri eminim hepimizin aklındadır. Ama o görüntülerin haricinde bir de İtalya'da o karantinada camdan cama söylenen şarkılar herkesin zihnine kazındı sanırım. Çünkü her durumda mutlaka tıngırdatacak bir iki tını, her konuda mırıldanacak bir iki kelamları vardır. Müzik pek çok konu dahilinde sadece aşk şarkıları olarak değil, her manada hayatınızda bir yerde karşınıza çıkar. Bu sebeple de ben bu hafta sizlerle İtalya'nın ozan şair müzisyenlerinden bir seçki paylaşmak istedim. Sanıyorum ki bu önümüzdeki 1-2 haftada sürecek. De André, Conte, Gaetano, Jannacci, Buscaglione gibi 60'ların ve 70'lerin İtalyan müzisyenleriyle birlikte Itabella'da olacağız. Şimdi Paolo Conte ile başlamak istiyorum. 6 Ocak 1937 Piemonte doğumlu İtalyan müziğinin ozan temsilcilerinden biridir. Program jenerinde de duyduğunuz Via Con Me İtalya dışında en bilinen eserlerinden biridir. Aslen avukattır ve hala da mesleğini icra etmektedir. İlk kez 1974 yılında yayınladığı kendi adını taşıyan albümüyle müzik piyasalarına giriş yapmıştır. Şimdi Conte'nin 1979 tarihli aynı isimli albümünden bir parça dinleyeceğiz. Un gelato al limon, limonlu dondurma radyonuzda. Gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limon è vero limon, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e berline colorate. Ecco quello che io ti darò. E la sensualità delle vite disperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita, con una valigia di perplessità. Ah, non aver paura che sia già finito. Ancora tante cose quest'uomo ti darà. E gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Mentre un'altra estate passerà. Ti offro una doccia e bagni di urto, che sono degli abissi di tiepidità. Dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città. ti offro la luna del pomeriggio. Per il sogno arabo che ami tu, è una stretta forte dalla mia mano, per te donna che non mi scappi più, e un gelato al limone, gelato al limone, gelato. Degli elettricisti, così almeno un po' di luce avrà la nostra stanza negli alberghi tristi, dove la notte calda ci scioglierà. Gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone, come un gelato. Un gelato al limon dinledik Conte'den. Yine Conte ile devam edelim. Son dönemde pek revaçta olan Nipop dizisinin 3. ve 4. bölümlerinde roll caption'da kendine yer bulan bir Conte şarkısı bizimle. Rida la stella l'aldebaran, rida fa tubi tubi tubi ona tubi diyerek l'orkestrina radyonuzda. Rida la stella l'aldebaran, rida fa tubi tubi tubi or not tubi. Ride la stella ride fa tra la la tubi tubi tubi or not tubi. E suona suona l'orchestrina, un motivetto da ballare. Hanno la faccia malandrina, ma sono stanchi di suonare, suonare. Si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa tubi, tubi, tubi o not tubi. Ride la stella, ride fa tra la tubi, tubi, tubi o not tubi. Ah, l'odalisca adesso nuda e muove i fianchi in qua e in là. Fuori le palme il vento suda, aria di pioggia e di infelicità. Arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo languore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran,

compromessi, la povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. La democrazia e chi ce l'ha, e poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella. Gina Gaetano'dan Aida'yı dinlediniz. 2007 yılında Rayuna'da Gaetano'nun hayatını anlatan, Marco Turco'nun yönetmenliğini üstlendiği bir drama serisi yayınlandı. Rina Gaetano'yu canlandıran Claudio Santamaria filmde Rino şarkılarını da söyledi. Geçen hafta Claudio Santamaria'dan Titi'yi dinlemiştik. Şimdi bu filme de ismini veren Il Cielo Sempre Blu, Gökyüzü Hep Mavi, Açık Radyo'da. Sei forte.

My Cielo Sempre Blue dinledik. Şimdi Gaetano'nun pek sevdiği müzik grubu I Gufi Tabella'da. I Gufi yani Baykuşlar Milanolu bir gruptur. Özellikle 60'ların ikinci yarısında oldukça popüler olan grubun şarkıları kabare, karamiza ve bolca hiciv karakterize eder. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'da doğan bilinmeyen asker ya da solda en köylü geleneğine İtalya'da dahil olmuştur. Şimdi bu geleneğin müzikal bir Il Gufi yorumunu La Balata del Milite Ignato, bilinmeyen askerin baladını dinliyoruz. La Balata del Milite Ignato, Il Gufi yorumuyla radyonuzdaydı. Gufi'nin 60'larda rayda pek çok televizyon programı oldu. Ama özellikle 1966'da ciddi sansür sorunlarıyla karşılaştılar. 1971 yılında çatışmalar sebebiyle dağılan grup, 1981 yılında Lombardia Antena kanalında yayınlanan bir program vesilesiyle yeniden bu kez Il Gufi a Colore ismiyle bir araya geldiler. Il Gufi'den pek neşeli bir melodiye sahip ama sözleri kendimi çok çok çok öldürmek istiyorum olan bir şarkı geliyor. Vorrei tanto suicidarmi. Sono nato con la camicia la fortuna è sempre con me, con le donne sono stato felice e la noia non so che cos'è, non lavoro e guadagno lo stesso, ma una voglia ogni tanto m'assale. Vorrei tanto suicidarmi ad un albero impiccato, parmi distretti nella rinforzarmi la carotide e tagliarmi o dal cielo precipitato, vorrei tanto suicidarmi dentro il ghiaccio congelarmi, ma sono timido e danoso e perciò domani mi sposo, l'emozione è quasi uguale. Apro quel becco di aria, mi butto sotto un taxi, mi lego al collo per sasso, ma se già rassegnato scampa, vorrei tanto suicidarmi e dal mondo congedarmi, vorrei togliermi la vita e così farla finita, non so più che mezzo usare. Forse con l'alta tensione di te o tra le ruote di un tranno, se per fortuna un giorno avrò suicidarmi il più patrò e il cadavere sarò. Apri quel becco di gas, mi buco sotto un tassì, mi leggi al collo un bel sasso, ma son già rassegnato a scampar, vorrei tanto suicidarmi e dal mondo congedarmi, vorrei togliermi la vita e così farla finita, non so più che mezzo usare. Forse con l'alta tensione o tra le ruote, se per fortuna un giorno avrò suicidarmi al timpatro e il cadavere sarò un cadavere. Il Gufi'den bir başka Milanolu müzisyene geçiyoruz. Enzo Iannacci. Şahsen hayran olduğum 1935 doğumlu Iannacci 2013 yılında aramızdan ayrıldı. Savaş sonrası İtalyan müziğinin en önemli temsilcilerinden biri sayılan Iannacci, Celentano, Tenco ve Gaber'le birlikte İtalyan rock'n'roll'un kurucularından biri kabul edilir. Kariyerine 1956 yılında Rocky Mountains grubunda keyboardçu olarak başlayan Iannacci, asıl bilinirliğini 1964 yılında Dario Fo ile birlikte yazdığı 22 canzoni, 22 şarkı rezitaliyle yakaladı. Şimdi oldukça yeni sayılabilecek bir Iannacci parçası dinleyeceğiz. 1980 Civole Orecchio albümünden salatanın her zaman tuzsuz olduğunu anladığın gün akşam gelecek ve işte o zaman sabahın gelmeyeceğini anlayacaksın diyen Quello che conta only you radyonuzda. Capirai che non potrò più camminare neanche in mezzo alla strada. Quando capirai che non potrò neanche aggrapparmi a quel balcone che c'è in mezzo alla strada. Quando arriverà la sera e penserai che la mattina dopo non potrebbe arrivare mai. E tu eri là che stai a urlare, che bel fresco devi stare, che ti frega di uno che e fa fatica a camminare. Allora quando mi dirai che proprio roba da imbecilli vomitare proprio in mezzo alla strada. E quando ti dirò che per fatica di capirti che mi viene da vomitare qui giù in strada. E quando arriverà la sera e penserai che la mattina dopo non potrebbe più arrivare. Tu eri là che sei al mare, che bel fresco devi stare, che ti frega di uno che fa fatica a vomitare. Allora passami in fondo alla piazza, è là dove canta il giubbotto. c'è ancora quello che cantò un leu. Accertarsi bene che quello che canta sia proprio un leo. Più arrivare e tu che cazzo sei venuto? Sei venuto via dal mare che per fresco eri la stare, che ti frega di uno che e si voleva rimbambire. Allora vai troppo in fondo alla piazza, senti che canta un liù, senti se c'è ancora quello che canta un liù. Accertarsi bene che quello che canta sia proprio un leo. Enzo Iannacci radyonuzdaydı. 1968 yılında Canzonissimo müzik yarışmasına katılan Iannacci finale kadar yükseldi. Ancak final için seçtiği şarkı olan O Visto Un Re, Rai tarafından sansürlendi, hatta Rai şarkının herhangi bir mecrasında yayınlanmasını dahi yasakladı. Elbette bu saçma önlemler bu harikulade şarkının bir klasik olmasına engel olamadı. Sözleri Dario Fo tarafından yazılan ve iktidarı hitveden parça, özetle güçlülerin yani kardinallerin, kralların ve zenginlerin çıkarlarına ters en ufak bir şeyde sızlanmalarına karşın, köylülerin ve fakirlerin en temel şeylerden mahrumken bile her daim gülmesini hitveder. Çünkü ağlarsak kralı, zenginleri ve kardinali incitiriz. Ağlarsak üzülürler diye. O Visto Un Re. Bir kral gördüm Açık Radyo'da. Dai dai, gündosu, mipçici, novi, frappici, abe, dai dai, gündosu, abe, sibe, dai dai, gündosu, mipçici, sibe, abe, sibe, abe. Ho visto un re. Se lo riscuse? Ho visto un re. Ave, sibe. Un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime. Ma tante che? Bagnava anche il cavallo. Povero re. E povero anche il cavallo. Sibe, ave, sibe, ave. E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena. Povero re. E povero anche il cavallo. Sibe, ave, sibe, ave, sibe, ave. Ho visto un vescovo. Se la riscuse? Ho visto un vescovo. Ave, sibe, ave. Anche lui, ave, lui sì. Piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sibe, ave, sibe, ave. E il cardinale che gli ha portato via un'abbazia. Oh, poi Cristo! 32 che lui cena. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sibe, ave, sibe, ave. Ho visto un ricco. Se la scuse? Ho visto un ricco. Un show. Sì, ape, sì, beh, ape, sì, beh. Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava diretta al vino. Sì, che tutto l'annacquava. Povero tapino. E povero anche il vino. Sì, beh, ape, sì, beh, ape, sì. Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case, un caseggiato di 32 che lui cena. Povero tapì. E povero anche il vin. Sì, beh, a beh, sì, chitta, sì, dai, dai, sì, chitta, sì, sì, sì, a beh, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Visto un vilano. Sai, scusa? Un contadino. A beh, sì, beh, a beh, sì, beh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie. E per cos'è? Un figlio militare. Ah, beh, sì, beh. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Poi il puscel. Nel senso del maiale. Sì, beh. Ah, beh, sì. Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava. Ah, ma Salerma? No, il fatto è che noi Milan, noi Milan, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Abbe! Ho visto un re, Enzo Iannacci'dan geldi. Şimdi Iannacci'dan Milano diyalektinde bir parça gelecek. Bu parçanın yer aldığı 2004 çıkışlı Milano Tre Giugno 2005 albümü ismini Iannacci'nin 70. yaş gününe ithafen almıştır. 3 Haziran 2005'e ithafen yani. Johnson sayesen ben bir sonraki Itabella'da görüşmek üzere Enzo Iannacci'dan Ohesuki ile kapatıyoruz. Sevgiler. Su chi e gli gioco la piena e gli giochi a Milan, chi a Milan mica avevi due an, forse tre an appena. E su chi ma quando sono arrivati mi interrom e gli sume un fagot dal papà con trapez da valise de carton. Beh ho visti ca tanti case spiani fiuli giugà, tacca tre di tram sul respingente, temperdente pure, salta sui colore dai respingente, come in giostra mio vis vola via la gente, era un gran sciupale, era un gran scappato, cade niul de felicità. Uè, son chi? Vengi già con la piena. Il giorno è un falchetto e l'uretto, sì, su leone belotto, la città dei farine è un casotto, manca in sci, la bepiasa anche in sci, il perché, la città che lo dentro in dieci, e quando sei un fiolin, e l'ho vista dal tram, da casu il respingente, come in giostra volà. Proprio in scivela per ricantare. E son chi? Le chi?